1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Eccoci alle 7:17 minuti, siamo ritornati in diretta, visto che iniziamo alle 6:30 noi, come sapete bene, razza di debosciati, che vi aggiungete solo ora, ma siete i benvenuti, ben accetti, e riceviate il mio abbraccio permanente che valga per tutta la giornata. Pubblico intanto... di merda. No. Pubblico di merda! No, questo è l'urlo che Mario Adinolfi manda ogni tanto alla nostra segreteria telefonica. No, assolutamente. Allora, carissimi, oggi vi ricordo che parleremo di questa vicenda del Mose, lo scandalo, le mazzette presunte. Siamo ovviamente garantisti. Avremo ospite anche il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, alle 8:35. Prima parleremo con Alessandra Moretti del Partito Democratico, eletta in Europarlamento. Sergio Berlato, un ex europarlamentare che non è stato confermato e che aveva fatto degli esposti denuncia a denunciare il sistema, che poi è stato forse scoperchiato dalla Procura di Venezia. E poi avremo ospite anche alle 8:45 oggi Paola Moschetti. Chi è? È la compagna di Massimiliano Latorre, uno dei due Marò, da 2 anni in India. Cercheremo di capire davvero se c'è ancora ottimismo per questa vicenda. Certo che c'è, ma sui tempi soprattutto. Allora, vogliamo partire dalla lettura dei giornali? In questo giovedì 5 giugno il Sole 24 Ore apre così: dal 2001 perse 120.000 fabbriche, il rapporto del Centro Studi Confindustria che viene messo in prima pagina. E poi tutti gli altri quotidiani aprono su cosa? Su Venezia. Il Corriere della Sera, politica e affari, la rete su Venezia. Per Repubblica, le tangenti di Venezia. La Stampa, la tangentopoli di Venezia, a Galan 1 milione l'anno. Questa è l'accusa. Il Fatto Quotidiano, gondole mazzette, ne han presi altri 35. Libero, i mostri della laguna. Il Messaggero, tangenti, terremoto a Venezia. Il Giornale mette il sindaco Orsoni arrestato e Galan, onorevole senatore per il quale ha richiesto l'arresto, cornuti e mazziati. Questo è il titolo, Il Paese Tradito. Il Secolo XIX, Venezia, l'onda delle tangenti. Il Manifesto, state serenissimi. L'Unità, Venezia affonda nelle tangenti, Avvenire, tangenti in laguna, nuove accuse sciocche. Insomma, come vedete, sono tantissimi, praticamente tutti i titoli dedicati a questo. Prima però voglio partire da che cosa, cari ascoltatori? Beh, dal mio solito appello: se state guidando, tenete le mani strette sul volante per la notizia che vi sto per dare, e soprattutto, come al solito, le vostre colazioni abbandonatele un attimo se avete caffè bollente, che poi vi scottate. Che succede in Sicilia? Lo racconta Mario Aiello. Tempi di spending review, revisione e contenimento della spesa, hanno deciso che bisogna abbassare un po' gli stipendi. Oh, e questa è una buona notizia. Tagli in Sicilia agli stenografi, solo 200.000 euro l'anno, quel solo ovviamente tra virgolette. Stenografi maltrattati, scrive Aiello, gli hanno abbassato lo stipendio a 200.000 euro l'anno. Così poco per battere tasti e redigere resoconti delle sedute dell'Assemblea regionale siciliana? Sì. Così poco. Già con 4.973 euro al mese nette per 15 mensilità, non è che uno stenografo palermitano viveva benissimo. E adesso che si dovrà accontentare di 4.000 sarà un dramma. Quel dramma isolano, così sintetizzato da Gianfranco Miccichè, il quale non a caso ha tentato di farsi eleggere al Parlamento di Strasburgo. Con 4.000 euro al mese non si può vivere bene. Così ha detto Miccichè, la nuova paga degli stenografi da 4.973 euro al mese netti per 15 mensilità scende a 4.000. Ah... Tra l'altro, eccoli gli stipendi: il segretario generale di Palazzo dei Normanni incassa per 15 mensilità all'anno 11.590 euro al mese, un consigliere parlamentare 6.984, un segretario parlamentare 4.321, un coadiutore parlamentare 3.511, un assistente parlamentare 2.828. Ora i consiglieri non potranno superare 240.000 euro annui, gli stenografi appunto si dovranno fermare a 200.000, i segretari 145.000, i coadiutori 100.000, gli assistenti a 92.000. Insomma, hanno fatto un po' di revisione della spesa, ma poi lo stenografo. Poi dicono che la carta non costa nell'era in cui con un click si dovrebbe leggere tutto online, la stenografia ancora per stenografare e trasmettere su carta poi tutti gli atti delle sedute dell'Assemblea parlamentare. Forza! Volete fare lo stenografo alla Regione Sicilia? Non sapete stenografare? Questo è già un piccolo problema. E poi, insomma, però vi potreste accontentare ora solo di 200.000 euro l'anno. Altre cifre, e a proposito di inchieste, che l'ultima di Venezia è a terremoto, la politica, gli affari, la finanza. Beh, oggi il Secolo XIX ha una notizia in prima pagina che riguarda l'ex presidente della Carige Berneschi, abbastanza clamorosa. È un'intercettazione ambientale del figlio di Berneschi, che è andato a trovare in carcere la moglie, anche lei finita in carcere, e non sapendo in questo colloquio con la moglie di essere intercettato, che ci fossero dei microfoni, il figlio di Berneschi parla del padre così: ha rubato come un pazzo, colloquio shock in carcere con la nuora che resta in cella, la nuora di Berneschi. La moglie appunto di suo figlio, le intercettazioni dicono del figlio che dice del padre Berneschi avesse preso solamente 2 milioni. Ed eccolo qui allora, Matteo Indice, in prima pagina del Secolo XIX, Francesca Amisano, nuora dell'ex presidente Carige Giovanni Berneschi, distinto sorride nel paratorio del carcere di Ponte Decimo, in cella da una settimana le danno la possibilità di incontrare il marito Alberto Berneschi, figlio dell'ex presidente Carige. Non sanno di essere intercettati, e a un certo punto il figlio dice su Berneschi Senior: quello è pazzo, rubava, mica solo 2 milioni. Il problema di sto cretino qua, vabbè, parla anche con questi termini del padre, lo vedi, questi soldi che ha rubato sicuramente, perché ha rubato, non sono 2 milioni di euro. Se fossero stati 2 milioni nessuno diceva niente. Beh, vabbè. Comunque, ma sto qua è un folle, un pazzo. Il tribunale rimarca il ruolo tutt'altro inconsapevole di Francesca Amisano, citando un'altra intercettazione. Certo, però, tutto il colloquio spiattellato a pagina 17 del Secolo XIX, Berneschi Junior inchioda il padre: un folle ha sempre rubato. Intercettazioni shock nel colloquio con la moglie detenuta. Vabbè, questo trovate sul Secolo XIX. Mentre sul Corriere della Sera spesso si parla di immigrazione, oggi c'è una notizia che certamente farà discutere e fa già arrabbiare la Lega: la cittadinanza a chi nasce sul suolo italiano. È un piano che c'è allo studio al Viminale, quindi al Ministero dell'Interno, per i figli dei rifugiati. Non per tutti, ovviamente, non lo ius soli per tutti, quella è una discussione più ampia. Virginia Piccolillo ne racconta i dettagli a pagina 21 del Corriere della Sera. Pochi giorni, giusto il tempo di mettere a punto la circolare, poi anche i bambini degli asilanti, arrivati magari nella pancia della mamma o nati in Italia successivamente all'arrivo dei genitori, potranno avere la cittadinanza italiana. Così il sottosegretario all'interno Nicola Manzione dice: nel giro di qualche settimana al massimo si potrà estendere ai figli dei rifugiati lo ius soli, cioè il diritto alla cittadinanza per il fatto di essere nati sul suolo italiano. Un provvedimento che riguarderebbe, secondo il segretario, solo 200 minori circa, ma capace di scatenare subito le proteste della Lega. Alfano smentisca o si dimetta: la cittadinanza non è un regalo ma una cosa seria, hanno scritto ieri due deputati della Lega su Twitter. Vabbè, c'è questo progetto dunque, per quel che riguarda la cittadinanza, circa 200 200 minori figli di coloro che hanno il diritti per essere considerati rifugiati politici qui in Italia. 24 mattino. Come potete immaginare, sui giornali di oggi è pieno di articoli che raccontano i dettagli dell'inchiesta dello scandalo di Venezia, la procura che indaga arrestando 35 persone. Ovviamente, come al solito, va fatta la premessa, tutto da provare, bisogna essere garantisti, ci sarà poi eventualmente i processi, ma l'inchiesta è un vero terremoto per Venezia. Pensate che Repubblica dedica le prime 15 pagine a questo tema. Per il Mose 35 arresti, 100 indagati, così a pagina 7 del Sole 24 Ore. Barbara Ganza e Sara Monaci raccontano i dettagli di questa inchiesta, un meccanismo simile, per non dire uguale, a quello della Tangentopoli del 92. Perfino le persone coinvolte in parte sono le stesse. La pagina non si era mai chiusa, nelle parole di Carlo Nordio, procuratore aggiunto a Venezia. L'inchiesta sul progetto del Mose a Venezia ha gli stessi elementi: appalti truccati dietro pagamento di tangenti che poi vanno a confluire in fondi neri per pagare le campagne elettorali dei politici. E in questo senso le indagini della procura veneziana sono bipartisan: si va dal sindaco del PD di Venezia, Giorgio Orsoni, finito ai domiciliari, all'ex presidente della regione Giancarlo Galan, la cui misura cautelare è sospesa in attesa del via libera del Senato. Il giudice per le indagini preliminari ha disposto 25 misure di custodia cautelare, 10 arresti domiciliari, reati vari di corruzione, finanziamento illecito ai partiti, frode fiscale. Gli indagati sono un centinaio. A Galan, per esempio, è contestato finanziamenti e ristrutturazioni dell'abitazione di Cinto Euganeo, ove venivano svolti dal 2007 al 2008 lavori nel corpo principale, successivamente nel 2011 alla Barchessa. E ancora, all'allora presidente della Regione Veneto veniva versato uno stipendio annuale di 1 milione di euro, così scrive nell'ordinanza il GIP di Venezia. Accuse gravissime che coinvolgono anche, guardate, fa impressione a vedere a pagina 2 e 3 di Repubblica delle facce, non tanto per le facce in sé, ma perché... guardate, vabbè, chiaramente i volti più noti sono il sindaco di Venezia, l'ex presidente della Regione Veneto, attualmente senatore Galan, ma c'è anche l'assessore regionale alle infrastrutture della Regione Veneta, Chisso, e poi un ex magistrato delle acque, Patrizio Cuccioletta, avrebbe ricevuto 400.000 euro. Il magistrato delle acque, Maria Giovanna Piva, successore di Cuccioletta, avrebbe ricevuto lo stesso stipendio, 400.000 euro. Marco Milanese, consigliere politico di Tremonti, avrebbe ricevuto 500.000 euro. Un ex generale della Guardia di Finanza, Emilio Spaziante, 2.500.000. Quindi, insomma, vedete, anche giudici, magistrati, generali, politici, imprenditori. L'eurodeputata uscente Lia Sartori avrebbe ricevuto 25.000 euro, il consigliere regionale marchese avrebbe ricevuto 58.000 euro. Insomma, è impressionante vedere appunto come ci siano non solo politici, ma anche magistrati, anche membri dell'esercito coinvolti in questa vicenda di sistema. Andrea Pasqualetto scrive anche lui sul Corriere della Sera i dettagli di tutto ciò: lavori in casa e stipendio, a Galan consegnavano 1 milione di euro l'anno, questo è il titolo. Venivano consegnate anche più volte all'anno somme ingenti di denaro, parliamo di 100.000 euro, anche più. Questo mi è stato riferito sia da Baita, ex presidente della Mantovani, che si lamentava delle richieste esose, sia dallo stesso Galan quando ne ero la sua segretaria. Ecco, è l'ex segretaria Claudia Minutillo, nel marzo 2013 volta le spalle al suo presidente e diventa la super testimone di questi presunti pagamenti fino a 1 milione di euro l'anno per Galan. Mentre ovviamente c'è anche un terremoto che ha coinvolto il sindaco di Venezia Orsoni, con Tra l'altro lo shock, Cacciari che in un'intervista dice dubito abbia preso Mazzette, il titolo a pagina 2-3 del Corriere è il professore cattolico con il palazzo nobiliare che preoccupa il PD, scrive il Corriere della Sera con Marco Imarisio, a posteriore la meglio con l'accento, nel marzo 2010 Giorgio Orsoni divenne il Mose del centro-destra, il centro-sinistra veneto, la barriera umana che aveva fermato alle bocche di Porto l'alta marea di Renato Brunetta. All'epoca ministro fantuttone, candidato sindaco che segnava per sé una città mondo. La definizione gli venne stampata sulla fronte durante la festa per la vittoria a Cafarsetti dall'ex prosindaco e suo rivale alle primarie, Gianfranco Bettin. Appunto lo definì il Mose, fu una definizione profetica, e qua però di profetico non c'entra nulla con il Mosè, forse era meglio con l'accento, come scrive Imarisio. Ora lo stesso Bettin dice: il coinvolgimento laterale di Orsoni sorprende, amareggia, il comune non c'entra nulla, l'onestà dell'uomo e il suo lavoro da sindaco neppure, ma comunque vada, accettare contributi da un'impresa che ha diviso la città è una pratica molto discutibile. Silenzio. E poi con un filo di voce Bettina aggiunge: ha fatto comunque una cretinata bella grossa. Ora ovviamente sarà tutto da accertare, lo stesso Galan in un colloquio un po' così strappato da Repubblica, da Carmelo Lo Papa, pagina 6 e 7, dice: il cellulare spento tutto il giorno, alla fine a sera si fa sentire anche Berlusconi che gli dice: sono al tuo fianco, vedrai, si sgonfierà tutto. Galan si difende così: fra 3 o 4 anni un tribunale riconoscerà la mia innocenza, ma chi mi ripagherà? Mi dicevano di stare attento, ma come facevo a sapere cosa poteva aver fatto a mio nome la mia ex segretaria Claudia? Non l'ho più vista, l'avrò incrociata e ci avrò parlato un paio di volte da quando non è più segretaria. Va bene, ovviamente ci sono anche le interviste. Renzi è dato per furioso, così dal Messaggero. Renzi furioso, anticorruzione, ora si cambia. Ieri ha incontrato anche il capo dell'anticorruzione Raffaele Cantone, che rilascia 2 interviste, una a Repubblica, una al Messaggero stesso. A Repubblica Cantone, intervistato da Liana Milella, pagina 11, dice: ispettori con più poteri e nei casi di corruzione vanno revocati gli appalti. Intanto, dice Cantone, io ho 26 dipendenti e lei con 26 persone vuol fare lo zar anticorruzione? Non sono abituato a lamentarmi dopo aver assunto un impegno. Con 26 persone è quello che mi daranno in futuro, garantisco comunque il massimo impegno possibile e non dico di più. Non dice neanche nulla dell'incontro avuto ieri con Renzi, la mia riservatezza è assoluta, posso solo dire che abbiamo parlato di quale potrebbe essere il ruolo dell'autorità anticorruzione nell'Expo. E poi bisogna migliorare la qualità ispettiva, ampliare il potere sanzionatorio, consentire all'ANAC di essere più efficiente nei controlli che fa l'ANAC, appunto l'autorità anticorruzione. Anche sul Messaggero, trasparenza, meno deroghe, norme sugli appalti da rifare. Così Raffaele Cantone, intervistato da Silvia Barocci. Peraltro, anomalie italiane. Mentre c'è un nuovo presidente dell'autorità anticorruzione, appunto Cantone, Gianni Barbacetto racconta sul Fatto Quotidiano che abbiamo già un'autorità, un'authority, l'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, in sigla AVCP. Ebbene, si chiede in questo articolo Barbacetto sul Fatto Quotidiano: cosa fa? C'è già, costa tanto, non combina nulla. Mentre Cantone ha appunto 26 dipendenti, questa autorità ha 330 dipendenti, 6 dirigenti, un segretario generale, una sede prestigiosa in un palazzo in via di Ripetta nel centro a Roma. Con una tale corazzata, presidente è Santoro, che è stato avvocato dello Stato, magistrato del TAR, consigliere di Stato, consigliere giuridico e capo di gabinetto in vari governi, consigliere del presidente del Consiglio Berlusconi per la trasparenza. Insomma, un prefetto e un perfetto super burocrate, lo definisce così il Fatto Quotidiano. È a capo Sergio Santoro di questa authority che, dice il Fatto, non combina granché. A proposito di di inchieste, vi invito anche a leggere Mariano Maugeri sul Sole 24 Ore sui nuovi dogi del project financing, cioè come il malcostume sugli appalti che coinvolgeva anche la sanità sia andato in crisi grazie all'attività delle fiamme gialle della Guardia di Finanza. Mentre oggi Gian Antonio Stella, anche lui si concentra su questa che è la vicenda principale dei quotidiani, quella del MOSE. 31 anni, costi quadruplicati. Quando diremo basta alle mazzette? Si chiede Gian Antonio Stella. Votatelo, pesatelo, se sbaglia impiccatelo, diceva un antico adagio veneziano. Certo, se le accuse contro Giorgio Orsoni, Giancarlo Galan e gli altri politici affaristi coinvolti trovassero conferma nei processi e sentenze, nessuno pretende corda e sapone. Il quadro di corruzione disegnato dai giudici però è così vasto da imporre finalmente una guerra vera e non a chiacchiere contro la mazzetta. L'affare del MOSE è esemplare, scrive Stella, perché c'è dentro tutto. C'è dentro lo spaccio dell'emergenza, dei lavori da fare a tutti i costi in tempi così drammaticamente rapidi da non consentire percorsi lineari nei progetti. C'è dentro l'idea della scorciatoia per aggirare, non cambiare, aggirare le regole troppo complicate. C'è dentro il rapporto insano tra la cattiva politica e il cattivo business, così stretto da chiudere ogni spazio ai controlli veri sui costi, sui materiali, sugli uomini, sui tempi. C'è dentro il disprezzo per i pareri discordanti e più ancora la faccia del chiacchiericcio federalista per le opinioni del comune tagliato fuori da decisioni prese altrove. E poi c'è dentro il continuo rincaro delle spese, la peste bubbonica delle nostre opere pubbliche. Dice ancora Stella... per fare il MOSE sono passati 31 anni, 9 volte di più di quelli bastati alla Cina per fare il ponte di Donghai, 32 chilometri, 8 corsie, collega Shanghai alle isole Yangshan. Così va in Italia, vero caro Mauro Meazza? Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Così va. Così va, insomma, così va e... Le cose sono sempre mobili, mi pare di capire, come il calendario. Sì, abbastanza. Oggi segnaliamo un po' di mobilità del calendario che riguarda soprattutto il pagamento o gli obblighi legati alle imposte. Ti volevo dire, per il 7.30 al CAFO, al professionista, c'è tempo fino al 16 giugno, tutti i particolari, norme e tributi oggi sul Sole 24 Ore. E poi c'è il problema della TASI, come sai questa è la seconda, terza settimana decisiva. Ecco, allora oggi rispieghiamo come si sta componendo il calendario, manca ancora un decreto legge, comunque un po', alcuni pagheranno il 16 giugno, altri il 16 ottobre, tutti quanti di nuovo il 16 di dicembre. Non so se questa ricorrenza del numero 16 nella smorfia potrebbe avere un qualche... Purtroppo non conosco bene la smorfia napoletana, ma non so se abbia una qualche... Intanto diamo i numeri, noi diamo i numeri sempre. Ma è uno in realtà, perché sempre quello poi ci torna. No, so che tu sei molto sensibile sempre ai temi condominiali e della casa, quindi ti ricordo che oggi, come ogni giovedì, le pagine di Casa 24 con due servizi... Da vedere, in particolare la possibilità di scambiare le case per andare in vacanza, quindi risparmiando, e poi la pubblicità sul condominio, cioè gestito dal condominio. A proposito di casa, di TASI e di inquilini, invece, attenzione, c'è una quota di TASI anche per l'inquilino ed è un'obbligazione tributaria autonoma. Non so se questa cosa ti era chiara, caro Alessandro. Ah, beh, adesso sì, però. Adesso sì, ma soprattutto ti sarà chiara quando avrai letto sul Sole 24 Ore che significa questo essere obbligazione tributaria autonoma. Poi domani te lo chiedo, così vediamo. Bene, se hai messo il controllo, fuoco, la verifica, ecco, la verifica. E facciamo una verifica. Senti, guarda che non possono più mandarci i cookie, i biscotti, sai cosa sono? Quegli affari informatici che ci quando ci colleghiamo a un sito ci mandano dei biscottini, si chiamano cookie, per monitorarci, per sapere dove andiamo, che siti visitiamo, che prodotti cerchiamo, eccetera. Allora, ce li possono mandare, ma ci devono chiedere il permesso, l'ha detto il garante della privacy, lo riferiamo oggi sul Sole 24 Ore. E appunto devo dire che tra le vicende di calendario da TASI eccetera mi veniva questa considerazione: martedì presentiamo il secondo libretto degli indispensabili. Sì. Sai, questi saggi che classici, sì, insomma. Ecco, il saggio che presentiamo mi sembra molto adatto alla questione Tasi e quant'altro, perché è l'elogio della pazzia di Erasmo da Rotterdam. Quindi forse c'è una continuità, quindi forse la prossima è la settimana decisiva. È allora molto attuale, è molto attuale. Rischia di essere molto attuale, magari c'è tutta un'operazione editoriale che devo confessare non mi è conosciuta. Va bene. Mi fermerei con questa battuta. Ciao, di gusto Erasmo. Populista. Eccoci qua, le 7:48 minuti. La politica ovviamente è un po' messa in sordina dalle vicende giudiziarie. Le notizie che trovate forse più interessanti è che sempre il Movimento 5 Stelle sta cercando di capire con chi farà le alleanze e ha tastato il polso ai Verdi, Beppe Grillo ieri. Loro dicono però non sei sincero. C'è un'intervista sul Corriere della Sera a Pina Picerno che dice De Magistris nel PD mai, fa come quei ragazzi nerd che si autoinvitavano alle feste delle medie. Insomma, la politica è un po' tutta qui. C'è la vicenda ancora della RAI con un'intervista di Repubblica a Michele Santoro. La TV pubblica è il vecchio, la scossa del Premier è un'opportunità. Santoro che dice: certo, forse fossi ancora in Rai farei lo sciopero, d'altronde resto un vecchio comunista e se il mio sindacato me lo chiede non faccio il crumiro. Ma la domanda quindi non condivide il taglio dei 150 milioni di euro, dice Santoro. Renzi, che ha nell'intuito la sua qualità più grande, ha capito che la TV pubblica è l'ultima sopravvissuta del vecchio sistema politico. È una mossa coerente. E sui tagli invece agli stipendi dei Vespa, i Floris, è pura demagogia, risponde Santoro. Se non hai Maradona, lo stadio non lo riempi. Senza Celentano non fai l'audience. E poi ancora c'è da dire che continuano i rumors che danno Giovanni Floris in uscita dalla Rai e da Ballarò per approdare a Mediaset. Ovviamente bocche cucite, ma raccontano tutti i giornali, c'è però questa trattativa. Io voglio andare su Libero. Libero mette nel mirino una proposta di legge di una deputata del Movimento 5 Stelle, riguarda la tanto annosa questione dei vaccini. Perché è un tema che oggi spunta anche sulla stampa. I grillini si fanno ridere dietro anche per i vaccini. Così è il titolo del giornale Libero. Marco Gorra racconta la proposta firmata da Emanuela Corda, che in pratica dice: i vaccini sono rischiosi perché recenti studi hanno messo in luce collegamenti tra le vaccinazioni e alcune malattie specifiche quali leucemie, intossicazioni, infiammazioni, immunodepressioni, mutazioni genetiche trasmissibili, malattie tumorali, autismo, allergie. C'è proprio scritto così, dice il Libero, mutazioni genetiche trasmissibili. E via ancora, si analizza da quando Andrew Wakefield nel 98, medico inglese, pubblicò lo studio che metteva in correlazione la vaccinazione trivalente dei bambini con lo sviluppo di comportamenti autistici. La conclusione è un complottone, anche se la rivista Lancet definì quella di Wakefield la più grande frode scientifica del secolo. Da lì sono nate tutte le teorie antivaccini che proliferano ancora tantissimo. Perché dico c'è un legame anche sulla stampa? Perché oggi la stampa, con il direttore Mario Calabresi, intervista Bill Gates. Oggi è la giornata dell'ambiente e non solo, intervista Bill Gates, intervista anche Paolo Mastrolilli, sempre della stampa, Michelle Obama, la First Lady. Le due correnti, i due punti chiave di queste interviste sono Bill Gates e il combattere la fame nel mondo e anche le malattie nel mondo, e Michelle Obama che invece spiega la sua campagna su come educare al cibo sano a tavola per gli americani. Bill Gates parla anche della vicenda dei vaccini, visto che è intervistato appunto da Calabresi a pagina 2 e 3 della stampa. Dice: c'è una nuova ignoranza su quanto sia importante vaccinare i bambini. Partiamo ovviamente dal fatto che quando tu inietti qualcosa a tuo figlio devi essere assolutamente certo che sia una cosa sicura, ma basta una voce dubbiosa perché parta una campagna contraria. Bisogna essere estremamente responsabili sulla sicurezza dei vaccini, verificare qualsiasi possibile problema, ma quando tu tutto è chiarito, poi bisogna informare la gente, altrimenti finisce come in Svizzera, dove ci sono bambini morti di morbillo e pertosse, bambini morti perché i loro genitori non credevano nei vaccini. E dunque, dice, noi punteremo a sconfiggere malattie come la poliomielite nel mondo con la fondazione. Il mio sogno, inoltre, aggiunge Bill Gates, eliminare la fame da qui a 20 anni. Parallelamente, un'intervista di 2 pagine, 5-6, a Michelle Obama, la mia sfida per l'America, aiutarla a mangiare sano. Racconta la First Lady il progetto Let's Move, cioè muoviamoci, ma proprio muoviamoci fisicamente, contro l'obesità infantile, non solo una questione medica, ma un problema di sicurezza nazionale e un problema economico. Costa, pensate, agli americani, all'economia americana, 190 miliardi l'anno di dollari, trattare poi la questione dell'obesità. Mi preoccupo non solo come First Lady, ma come madre, perché dallo studio alla sfera emotiva l'obesità riguarda ogni aspetto della vita dei nostri figli. Le soluzioni: ci siamo impegnati per ottenere pranzi più nutrienti a scuola e più attività fisica già a partire dall'asilo. Cambieranno anche gli snack dei distributori, quindi non più merendine, ma cibo un po' più sano. Comunque, due interessanti interviste nella Giornata Mondiale dell'Ambiente sulla Stampa. Ma a proposito di stampa, devo rimanere lì per la carta costa. L'articolo più inutile scovato sui giornali rispunta, non lo sapevo. È estate, fa caldo. Vi darò questa notizia. Arriva il caldo, prova d'estate, weekend bollente. E allora i consigli, io non ci volevo credere, i consigli ci sono sulla stampa del medico. Bevete tanto, indossate abiti leggeri, evitate le ore centrali della giornata, e chi fa sport eviti di farlo a mezzogiorno. Ma dai, ma no, cari vecchi, uscite col sole a picco alle 2 a fare una bella passeggiata e non bevete, No, non bevete mai, che fa un caldo torrido e arriva la carta costa. Evviva!